È il mio momento. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Del mondo è transitoria. E non è questa che ci dà la dimensione della nostra vita, ma è la scelta che facciamo di seguire la nostra leggenda personale, credere nelle nostre utopie e lottare per i nostri sogni. Discorso di insediamento all'Accademia Brasiliana di Lettere. Sì. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. D'Agostino. Oggi è martedì e quindi domani è mercoledì. Eh sì, è così da sempre. E quindi domani sera, mercoledì, mi sembra 5, giusto? 5 luglio 2006. Il nostro appuntamento con il cammino in discoteca. Cioè ci vieni anche in auto se vuoi, però nel senso, capito? Discoteca Continental, località Colico, provincia di Lecco. Tiè, domani sera, 5 luglio, ore 22:30. Ci vediamo lì. Ginnastica mentale. Inchia, domani sera. Ginnastica mentale. Voce del verbo, te saluto e non te vedo. Fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico ti ti ti fatico. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Scusate se vi ammacco il pitone. Vi leggo una citazione. Prima di realizzare un sogno, l'anima del mondo decide se... L'anima del mondo... Scusate, mi è scappato. Prima di realizzare un sogno, l'anima del... È difficile perché viene... C'è un'associazione, capito? Di... Che io dico l'anima del... È proprio... È automatico. Seriamente, come dicono quelli che non ce la fanno. Prima di... Non c'è verso, proprio. Cioè, il verso c'è e che bisognerebbe recitarlo, ma... Prima di realizzare un sogno, l'anima del mondo decide sempre di provare. Vi do il titolo del libro, così ve lo cercate e ve lo leggete voi, perché è difficilissimo questo. Prima di realizzare un sogno, l'anima del mondo sempre. Prima di realizzare un sogno, l'anima del mondo prima di realizzare un sogno, l'anima del... Niente, scusate. Prima di realizzare un sogno, l'anima del mondo decide sempre di provare tutto quanto si è preso durante il cammino. Ce l'ho fatta. L'alchimista di Paolo.

stacchi, sti cacchi. Piacere, prestiamo attenzione perché non siamo allo snocciolatoio pubblico, eh? Sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Chi è sto cammino? Di Gigi D'Agostino. We'll be right back. Get down. Ci gira intorno. Get down. M2O. Frequenza. Benevolenza. I wanna touch you, baby, wanna get down. Al cielo per questo brano. I wanna feel you, baby, wanna get down. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino e oggi va un po' dappertutto. Sono legato, astornato a una storia, una più storia che mi mancherà come l'aria. Sangue c'è un valore che non va, sarà forse l'alcol che non mangio, la frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Un santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino, nel mio giardino e come un soldatino. E cammino, cammino e corro come un bambino e sparo al destino. Taratata, signore libero, fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro. mica pistacchi. Sti cacchi. Questo è cammino di Gigi D'Agostino. Bella, molto bella. E questo è un cammino bastardo, perché ogni tanto ti aspetti che vada da una parte e poi lui invece se ne va proprio tutto dall'altra. Proprio tutto dall'altra. Proprio tutto dall'altra. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Il momento è tremendo. Sì. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io, ma il cammino è nostro, è mio, è vostro. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sì, vabbè. No, poi dicono... No, vabbè, dai. Cammino di Gigi D'Agostino. Saranno una prova delle tue capacità e ti infonderanno fiducia dinanzi a qualsiasi ostacolo. Manuale del guerriero della luce. Paolo Coelho che scrive, ma ciao proprio. Voce del verbo te saluto.